Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i mercati e soprattutto il differente rendimento tra le nostre obbligazioni e quelle tedesche, il cosiddetto spread, devo dire che oggi la giornata è decisamente migliore e va bene soprattutto a Milano. Anche Parigi guadagna 1,5 punti. Londra più 0,90, l'America in questo momento è invariata, Francoforte più 0,40, Milano ha un recupero questa volta netto e non abbiamo fatto i calcoli, ma dovrebbe a questo punto portare, far recuperare anche tutto il calo di lunedì, ma direi in maniera certa, più 2,80% dopo il quasi 2% di ieri di recupero. Fondiaria SAI guida i rialzi con il 9,5%. Ma molto bene anche la Popolare di Milano più 6,30, Intesa San Paolo più 6,15, Monte dei Paschi più 5,90, Unicredito più 4,30, Ubibanca più 4%, Generali Assicurazioni più 4,14%, e ancora Fiat più 4,80 e Mediaset più 3,66%. Mi fermo con chi guadagna più del 3%, TOZ più 3,1% come Enel. Vale la pena ricordare però tra i bancari anche il Banco Popolare che guadagna il 2,70%. Chi perde? Lottomatica al 2%, Ansaldo STS meno 1,30%, Pirelli meno 1,30%, Mediolanum meno 0,60%. È un recupero netto che vale anche per l'euro, ossia siamo a quota 1,42,15 nei confronti del dollaro. Ed è, direi, era già iniziato questa mattina con una chiusura della borsa giapponese in rialzo dell'1,20%. Abbiamo scherzato, potranno scrivere, scriveranno sicuramente alcuni, a mio avviso no, però le notizie sono buone e ripeto, oltre alla borsa è buono ed è molto positivo il fatto che lo spread tra Italia e Germania, quindi la differenza tra rischio paese misurata attraverso i tassi di interesse, è sceso di nuovo sotto i 300 punti, è tornato a 290 punti base, anzi anche sotto 286 punti base. Tra l'altro oggi la Bundesbank ha collocato titoli di Stato triennali per 1,6 miliardi. Allora, vista le settimane da cui veniamo, forse con una borsa che guadagna il 2,80 con lo spread che scende sotto i 300 punti e viste i tempi di magra che corrono, vale la pena tirare fuori dalla sua tana il nostro gallo. Da quant'è che il gallo non lo sentivamo? Comunque, vediamo, potremmo dire che un gallo non fa rialzo e non fa inversione di tendenza, ma meglio avere un recupero del 2,80% che un altro calo. Dopo questa, diciamo, affermazione alla catalano, andrei avanti con affermazioni più serie. Per esempio, a quanto è il petrolio, $98,3 al barile, stabile. Mentre per quello che riguarda la benzina e la vertenza con i benzinai, oggi il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia ha ricordato che rispetto al numero di impianti attuali di pompe di benzina, che sono 24.000, la collocazione ottimale sarebbe intorno ai 16-18.000 distributori, quindi un taglio di 6-8.000 punti vendita. E allora dagli Stati Uniti, via libera della Camera al piano di debito, però attenzione, non quello proposto dal presidente Obama, ma quello proposto dai repubblicani. il voto è simbolico, nel senso che il piano non passerà mai in Senato e Barack Obama ha già detto che opporrà il proprio veto. Sarebbe un piano che prevede 111 miliardi di tagli solo nel 2011, un tetto alle spese del 18% del PIL e un emendamento alla Costituzione per un budget bilanciato per l'aumento del tratto del debito. Ma insomma, una proposta dei repubblicani che passa dalla Camera, ma attenzione, non passerà né al Senato né potrà passare perché il Presidente porrà il veto. Allora, vedo che alcuni dicono, beh, insomma, con 290 punti base non c'è di che essere felici. Siamo d'accordo, però visto che eravamo a 340 lunedì, mezzo punto percentuale in meno nello spread, vale la pena festeggiare o dobbiamo sempre, diciamo, piangere? Già mi sembra che gli argomenti non manchino. C'è chi dice che il gallo porta sfiga, non lo so, se ormai tutto può valere con questa borsa. American Airlines ha ordinato 460 aerei, ha diviso in maniera abbastanza equanime l'ordine tra la Boeing, 200 Boeing 737 e 260 Airbus A320. Ti è l'ordine più grande della storia dell'aviazione commerciale, un valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai 38 miliardi di dollari, considerato che un B737, per chi volesse comprarselo, costa 81 milioni di dollari. E invece un po' più caro, quindi solo per le fasce di reddito più alte, l'Airbus A320 costa circa 85 milioni di dollari. L'Europa, domani c'è un vertice decisivo per la Grecia, lo dice lo stesso governo greco, il summit di domani a Bruxelles sarà decisivo per il futuro della Grecia. Come vanno le scommesse sulla Grecia? Ma in sostanza i bookmakers lasciano ancora molte poche speranze al paese ellenico. Il fallimento greco infatti è dato a 1,13 se non volesse scommettere sul fallimento greco. Il salvataggio greco è dato a 5, per cui un euro scommesso sul fallimento greco fa guadagnare 1,13 e un euro scommesso sul salvataggio greco fa guadagnare 5 euro. E che la situazione sia molto grave e che non ci sia da farsi illusioni, lo ha ribadito oggi il Presidente della Commissione Europea, José Barroso. Attenzione, ha detto, occorre che i leader europei mostrino responsabilità europea perché è in gioco non la Grecia, ma il futuro dell'euro stesso. Nobody should be under any illusion. Nessuno si faccia illusioni. La situazione è molto seria e richiede una risposta, altrimenti gli effetti negativi della crisi si estenderanno a tutti gli angoli della zona euro e anche oltre. La situazione richiede un impegno da parte di tutti i partecipanti al vertice e io credo che ci sarà. Gli elementi per arrivare a una soluzione sono noti. La Commissione ha spinto e continuerà a farlo per arrivare a un approccio ambizioso e globale. Credo che domani si debba arrivare a fare chiarezza almeno su 5 punti. Le misure previste per stabilizzare la crisi del debito sovrano in Grecia, la fattibilità e i limiti della partecipazione del settore privato, i margini per azioni più flessibili da parte del Fondo Salva Stati, la necessità del settore bancario, le misure per assicurare la provvista di liquidità al sistema bancario. La maggioranza delle decisioni di domani attiene alla competenza degli Stati membri. I leader hanno detto che faranno tutto il necessario per assicurare la stabilità della zona euro. Ebbene, è venuto il momento per mantenere questa promessa. La verità è che siamo interdipendenti. Questa non è un'opzione, è una realtà. L'euro è uno dei nostri più grandi asset, i cui benefici vanno ben oltre gli sforzi che sono richiesti agli Stati membri rappresentanti di posizioni diverse al negoziato. Non possiamo essere superficiali su questo, oppure sarà la storia a giudicare duramente questa generazione di leader. E che quella di domani sarà una riunione europea non priva di qualche tensione, lo si capisce da quanto pubblica oggi il settimanale satirico francese Le Canard Enchaîné, perché è sempre molto ben informato sui gossip e retroscena dell'Eliseo, sostiene che, e lo sostiene in maniera seria, che il presidente francese Nicolas Sarkozy avrebbe, parlando con un piccolo gruppo di persone lo scorso 13 luglio, avrebbe detto: sulla crisi dell'euro i greci fanno ciò che possono, hanno già fatto molto e noi anche. Gli unici che non danno prova di solidarietà sono i tedeschi. L'egoismo tedesco è criminale, mantiene viva la crisi. Immaginiamo che Sarkozy smentirà, però attenzione, più di un osservatore ha fatto notare come già l'anno scorso ampi spazi alla speculazione siano stati offerti dalla Germania, che fino all'ultimo ha aspettato l'ultimo secondo possibile per dire che avrebbe comunque fatto quello che tutti sapevano che avrebbe fatto, cioè partecipato al salvataggio della Grecia, visto che le banche tedesche hanno 30 miliardi di esposizione verso la Grecia, quelle italiane solo 5, quindi insomma fate le debite proporzioni. Eppure la Germania continua a far pesare ogni sua scelta, non capendo, visto che ce l'abbiamo, possiamo anche far sentire Tremonti sulla prima classe, quello era rivolto all'Europa, però insomma i tedeschi dovrebbero ricordarselo ogni tanto. Lo facciamo sentire dopo? Va bene, lo facciamo sentire dopo. Nel frattempo viene lanciata anche dalla Commissione Europea una task force per l'assistenza alla Grecia, costituita oggi presso la Commissione Europea, e il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha detto che Angela Merkel e Nicolas Sarkozy cercheranno una linea comune, sono fiduciosi in una soluzione sensata. E sul tema è intervenuto, sul tema della speculazione, è intervenuto anche il numero uno di Unicredito, Federico Ghizzoni, che ha detto oggi: attenzione, la speculazione non è dovuta a un improvviso cambiamento dei parametri dei fondamentali italiani, è una catena iniziata con la Grecia ed è una volontà del mercato. Sentiamo questo passaggio di Ghizzoni al microfono del nostro Andrea Viali. L'Europa ha un problema immediato, che è il discorso della Grecia. La Grecia era una situazione assolutamente gestibile mesi fa, il fatto che sia continuamente prorogato, posticipato la soluzione è diventato oggi un problema rilevante. Il primo passo che l'Europa deve fare a partire da domani è tentare di trovare la soluzione per la Grecia, questo è indispensabile. Poi ci sono sicuramente discorsi tipo macro ulteriori, non so, il discorso del debito sovrano c'è per l'Europa, come peraltro c'è anche per gli Stati Uniti, ma in un mercato tranquillo, non volatile come quello di oggi, si possono gestire secondo me senza eccessivi problemi. Ma prima va risolto il problema Grecia, che poi ha generato anche le tensioni sull'Italia ultimamente, no? Che non è che la speculazione comunque, il fatto che i mercati siano girati contro l'Italia nelle ultime due settimane sia dovuto ad un improvviso deterioramento delle fondamentali italiani. È una catena che è iniziata con la Grecia, finché non si risolve quella continuerà. I privati hanno espresso ormai in più riprese la loro disponibilità a dare un contributo per risolvere il problema. Adesso è più un discorso di tecnicalità, di volontarietà dell'intervento meno, perché se volontario esclude il principio del default, che è importante, l'aspetto tecnico ma importante. Quindi i privati aspettano notizie, ma la disponibilità di massima c'è. È importante perché Unicredit ha anche un'importante banca in Germania, molti la definiscono metà italiana, metà tedesca, non è proprio così, però Hypo Vereinsbank è controllata dal gruppo Unicredit, e il riferimento che faceva Ghizzoni è al fatto che con ogni probabilità già è stato chiesto di fatto con un atteggiamento volontario, però che anche le banche partecipino alla ristrutturazione del debito greco, che poi vuol dire rimodulare un prestito, un po' come avviene per i privati. Vuol dire che la Grecia avrà offerto di pagare più in ritardo, di avere scadenze più lunghe, di fatto rinunciando a parte dei rimborsi che avrebbe dovuto effettuare, o perlomeno agli interessi su questi rimborsi. Sulla Germania, dicevamo, un fiducioso governo tedesco, linea comune, a noi è venuto in mente, lo facciamo riascoltare, visto che adesso ce l'abbiamo, la battuta di Giulio Tremonti sul Titanic. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è, o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. O meglio, vista la storia del Titanic, si salvano un po' di più i passeggeri di prima classe, ma non tutti, per cui attenzione anche agli stati come la Germania, che pensano sempre di essere al di fuori di qualunque crisi. Ancora sull'Italia, adesso arriveremo ai dati sul fatturato e la produzione industriale nel nostro paese. Ripeto, lo spread è tornato sotto i 300 punti, a 290, secondo il Centro Studi di Economia REF. Comunque la crescita quest'anno non sarà superiore allo 0,7%, quindi scesa rispetto all'1% stimato prima, e 0,7% è anche la crescita attesa l'anno prossimo. Due notizie prima di partire col primo tema, quindi ordinativi industriali, fatturato dell'industria e andamento del settore elettronico e elettrotecnico, che oggi ha presentato i dati. Poco fa è arrivata la notizia che è saltato l'accordo tra Intesa San Paolo e i sindacati, che doveva essere raggiunto in seguito al nuovo piano d'impresa. Sostanzialmente nulla di fatto nelle trattative, adesso aspettiamo di vedere se vi saranno ulteriori sviluppi. E poi una notizia, non per rovinare la giornata che in borsa è positiva, però insomma una di quelle notizie che tra l'altro che domani Deborah Rosciani tratterà a Salvadanaio dalle 12 in poi. Il bonus bebè, ve lo ricordate? Il bonus bebè, 1000 euro nel 2005, nel 2006 per ogni figlio nato adottato in quegli anni? Allora, per poter beneficiare di quell'aiuto veniva inserito un tetto di reddito massimo di 50.000 euro sulla base dell'autocertificazione del reddito da parte delle famiglie richiedenti. E fin qui è storia. Cosa sta succedendo? La Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro ha chiesto all'Agenzia delle Entrate in questi giorni di verificare la validità di questo bonus. Il modulo compilato all'epoca dalle famiglie non specificava se la cifra era lorda o netta, il che ha provocato anche l'equivoco. Ai genitori che avevano ricevuto il bonus adesso arriva praticamente una lettera in cui viene chiesta la restituzione dell'assegno e il pagamento addirittura di una sanzione amministrativa di altri 3.000 euro. Adesso io dico va bene tutto, ma per 1.000 euro di bonus, visto che l'errore poi era del modulo che non specificava lordi o netti, già chiedere indietro 1.000 euro, aspettava un altro po', glieli dava direttamente il bambino, però chiederne 3.000 euro più 3.000 di multa, non so, ma è una cosa da fuori di testa. E chi vi parla non ha goduto del bonus bebè. Non bastasse questo, se fosse accertata la violazione del codice penale, cioè l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, i genitori rischierebbero una multa ulteriore tra i 5.000 e i 25.000 euro. Adesso auspichiamo subito che il Ministero intervenga, perché non mi sembra il caso di minacciare genitori che hanno goduto di un bonus bebè perché avevano scritto 50.000 euro e pensavano netti invece erano lordi o viceversa, non era chiaro il modulo. Già chiedere dentro i soldi non va bene, anche perché cosa fai? Gli ridai le pappe? Gli omogeneizzati, i pannolini? Ma chiedere 3.000 euro di multa ed eventualmente anche una sanzione penale tra i 5 e i 25.000 euro non ci fa che tornare in mente una canzone di Carosone. Carotone. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Cari bambini, avete già capito come funziona il nostro italiano, eh? A 5 anni vi richiedono il bonus bebè. È un mondo difficile, felicità momenti e il resto difficoltà. Andiamo avanti con i temi, va là. Voilà. E parliamo del fatturato dell'industria italiana, che oggi è stato diffuso per quello che riguarda il mese di maggio, meno 1,7% a maggio rispetto ad aprile, e il dato quindi non è buono a livello congiunturale, ma è buono invece maggio su maggio. Perché? Perché un più 10,8%, anche qui tutto dovuto all'export che fa 15%, e anche gli ordinativi fanno un più 13% maggio 2011 su maggio 2010 e un più 4% rispetto ad aprile. L'incremento a questo punto anche nel caso degli ordinativi è trainato dal mercato estero, più 12,2%, ha commentato questi dati sulla produzione industriale la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha parlato anche di altro, ma sentiamola sugli ordinativi. È un dato certamente positivo, va riconosciuto come positivo. Ci sono alcuni dati meno positivi che riguardano per esempio l'andamento della produzione industriale e anche dei consumi, quindi si conferma che probabilmente il nostro paese non crescerà più dell'1% di PIL per quanto riguarda il 2011. È un dato troppo basso, dobbiamo tutti lavorare per avere un tasso di crescita più alto, perché con un 1% non riusciamo a riassorbire disoccupazione e non riusciamo, diciamo, a fare un salto in avanti come quello che vorremmo tutti. Difficile. Molti scrivono sul tema del bonus bebè: è giusto, se autocertifichi il falso, è giusto stangarti. È ovvio che il reddito fosse lordo. Ho capito, bastava scriverlo. Adesso, ripeto, io non ho compilato il modulo. Però se alcuni hanno fatto l'equivoco, cioè, la colpa è di chi lo compila senza scrivere lordo netto. Ho capito che per intuizione si poteva arrivare che fosse lordo, però a questo punto scrivilo, no? Ma poi dico, va ben tutto, fateli dare i soldi, ma 3.000 euro di multa? Quando è dimostrato che ci poteva essere un'ambiguità per 1.000 euro di bonus bebè? I costi della politica, perché ne parliamo? Perché ne ha parlato oggi di nuovo Emma Marcegaglia, con un ragionamento sempre al microfono il nostro Andrea Viali. Ha detto in sostanza: è inaccettabile che i sacrifici siano per tutti ma non per la politica. La nostra posizione è nota, noi pensiamo che il tema dei costi della politica vada affrontato subito, non rimandato più in là nel tempo, in un momento in cui si va a una manovra dove si chiedono sacrifici a tutto, alle famiglie, ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese, la politica deve dare il buon esempio, quindi noi ci aspettiamo che si arrivi velocemente a definire un taglio dei privilegi e dei costi della politica. Non è demagogia antipolitica, di politica abbiamo bisogno in questo paese, però in un momento difficile come questo non è accettabile che tutti facciano sacrifici, tranne appunto chi fa politica di professione. E ancora poi parleremo più avanti del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso dell'Enel a Porto Empedocle, quindi va avanti, si potrà fare il rigassificatore di Porto Empedocle. Noi siamo assolutamente a favore di tutti i rigassificatori, così ci liberiamo dal rapporto praticamente ombelicale con la Russia e con l'Algeria. Non stiamo difendendo chi ha dichiarato il falso, lo dico sul bonus bebè. Ripeto, secondo me si poteva essere più chiari, non generare equivoci, e chiaramente chi poi fa il furbo deve essere punito, lo sosteniamo sempre. Ma attenzione, non sembra così chiaro il comunicato e il modulo. Facciamo una bella cosa, siccome vorrei parlare adesso con Guidalberto Guidi di come vede lui la situazione, ma anche di come va il settore che rappresenta da solo 50 miliardi di fatturato di questo paese, mi riferisco all'elettrotecnica e all'elettronica da consumo, poi arrivare alla borsa, più 3% la chiusura, andiamo in pubblicità al meteo e poi borsa, Grecia, Guidi, Enel, forse i ritali e forse sforiamo e arriviamo a mezzanotte, meteo. ...17:35 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Beh, avrà una bella puntata domani Deborah Rosciani col bonus bebè, a giudicare dai messaggi che ci stanno arrivando. Allora, scrive, penso, un commercialista da Udine: il modulo parlava chiaro, reddito complessivo, ma molti hanno in buona fede comunicato il reddito imponibile. E poi scrive un'altra ascoltatrice: non essendo sposata ma convivente, il reddito era il mio come per gli assegni familiari, oppure la somma come per le detrazioni, cioè la somma dei due redditi. Insomma, questa è la confusione che si è generata sul bonus bebè, per cui adesso l'Agenzia delle Entrate chiede di ritornarlo, più 3.000 euro di multa. Allora facciamo subito l'ANIE, ossia andiamo subito a parlare di un settore importante, poi arriviamo alla borsa più 3%, visto che parlavamo della produzione industriale, poi la Grecia che domani è attesa questa grande verifica, e una notizia positiva il fatto che sia sbloccato l'investimento Enel supporto Empedocle. Allora l'elettronica. Dicevo, l'elettronica e l'elettrotecnica italiana, che significano poi, come sempre facciamo quando parliamo di un settore, 56 miliardi di euro di giro d'affari. Con quasi la metà di questo giro d'affari, di questo fatturato che se ne va in esportazione. E siamo in collegamento con il presidente dell'ANIE, che è l'associazione di Confindustria, che raggruppa oltre 700 aziende elettroniche ed elettrotecniche. Guido Alberto Guidi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, dati diffusi oggi dal vostro rapporto annuale. Il 2010 ha visto un recupero rispetto al calo che era stato del 18% nell'elettronica nel 2009, parlo, e del 13,5% nell'elettrotecnica sempre nel 2009. Quanto è ammontato il recupero del 2010? Ma grosso modo stiamo parlando tra il 10 e il 12%, quindi non abbiamo ancora recuperato il calo della fine 2008 e di primi 2009. Tenga conto che dentro queste cifre, che naturalmente così identificano l'andamento di un settore, c'è una fascia molto ampia. Diciamo che alcuni hanno avuto un meno 10, ma molti hanno avuto un meno 30, meno 40 nel corso del 2009. Quindi diciamo, possiamo dire che dopo la crisi, fine 2008-2009, abbiamo recuperato un 60%, la ripresa è continuata nei primi sei mesi del 2011, ma non siamo ancora ai livelli pre-crisi, e soprattutto dietro l'angolo non è che ci sia un sole splendente. Ecco. Le nostre aziende cominciano a denunciare sul portafoglio ordini qualche calo o qualche preoccupazione. Qualche rallentamento. Restiamo ai vari settori, perché elettrotecnica e elettronica vengono spesso confuse, in realtà sono settori molto diversi. Dov'è che il recupero è sto più forte nei vari settori? Perché c'è la componente, sistemi per impianti, i cavi, la distribuzione di energia, ma c'è anche il canale domestico, gli investimenti infrastrutturali. Dicevo, dov'è che il recupero è sto più forte e dov'è che invece ancora langue? Ma diciamo che all'inizio è stata l'elettrotecnica, poi è subentrata l'elettronica, i componenti nel corso della seconda parte del 2010, dovuto anche al fatto della carenza delle materie prime, quindi i prezzi sono aumentati, quindi i volumi hanno subito anche un positivo effetto prezzo. Ecco, oggi credo che quella che soffra di più è sia l'elettromeccanica, perché è molto collegata all'andamento dell'edilizia. Quindi, dato che l'edilizia è più o meno ferma nel nostro paese, ma potrei dire in tutta Europa, ecco, questo si ripercuote anche sui volumi d'affari e sui margini dell'elettrotecnica. Per quello che riguarda invece la domanda aggregata, come si chiama in gergo, anche voi denunciate una componente esportazioni come la principale componente, insomma, che ha guidato. Se dovessi identificare due punti chiari della ripresa del 2010 e in parte anche del 2011, quasi tutta giocata sull'export, quindi la crescita è avvenuta quasi tutta sull'export e senza occupazione, senza aumento di occupazione. Nella migliore delle ipotesi abbiamo recuperato una buona parte di quelli che erano in cassa integrazione, ma il saldo è senza dubbio negativo. Ecco, queste sono le due caratteristiche. Ecco, visto che parliamo di export, le aree più interessanti per l'export italiano di elettronica ed elettrotecnica, che appunto vale 25 miliardi di euro, l'Europa continentale, ad eccezione della Spagna e alcuni altri paesi, Spagna, Portogallo, Grecia, che sono praticamente fermi, completamente fermi, per non dire sotto zero, e poi ex Europa, diciamo ex Unione Sovietica, quindi Europa dell'Est, e parte la Turchia e anche il Far East. Ah, quindi Far East, Turchia, Est Europa, insomma laddove... Meno Stati Uniti e America del Sud, anche perché lì la competizione si sta facendo molto, molto forte. E il dollaro debole naturalmente non ha favorito. Ecco, sul fronte della domanda interna c'è qualche risveglio? Sappiamo che è debole, sicuramente più debole rispetto all'export. C'è qualche risveglio? No, anzi, direi che le prospettive, se uno guarda i portafogli ordini, sono di un'ulteriore flessione sul mercato interno. E questo per via di quali motivi? Per esempio, da voi conta molto il settore costruzione. Ieri sentivamo il presidente del Lancio Buzzetti, che oggi ha fatto... l'assemblea, insomma, dire che loro prevedono un calo negli investimenti infrastrutturali sia domestici che di infrastrutture pubbliche, quindi edilizia nel complesso, sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Sì, senza dubbio molta della nostra industria, dei nostri associati sono collegati all'andamento delle costruzioni, quindi questo li penalizza fortemente. Direi poi che la quasi totalità delle nostre aziende sono collegate agli investimenti nelle infrastrutture, soprattutto nelle reti, quindi ferrovie, energia elettrica, telecomunicazioni, direi che per vari motivi, che adesso forse sarebbe troppo complicato spiegare approfonditamente, le prospettive, ma soprattutto l'inizio del 2011, non è stato favorevole. Ecco, e mi sembra di capire che da quello che dicono i vostri associati il portafoglio ordini sia un po' in difficoltà per il resto del 2011, non è una bella notizia. Diciamo che le prospettive non sono positive. Non sono positive, quindi un rallentamento. Senta, Presidente Guidi, lei è stato, oltre che Presidente di Confindustria ANI negli ultimi quasi 6 anni, è stato Vicepresidente di Confindustria, Presidente del Sole 24 Ore, quanti anni ha? Io 69. Tanto insomma, gli uomini lo possono dire, no? Certo. Un arzillo vecchietto, ecco. Spero arzillo. Ecco. Glielo chiedo non per farmi i fatti suoi, ma perché volevo un suo commento da imprenditore e da persona che ha frequentato anche la rappresentanza confindustriale a lungo, di quello che sta capitando sui mercati nelle ultime settimane. Lei che idea si è fatto? Che c'è un attacco nei confronti dell'Italia, che è un attacco reso possibile dalla debolezza complessiva della politica, governo e opposizione, che c'è una speculazione in corso? Io faccio 120-130 ore di volo all'anno, nonostante l'età, giro il mondo, l'altro giorno ero negli Stati Uniti, ma direi che insomma tra Londra, il mondo valuta i fondamentali. Il nostro è un paese che tecnicamente già da molti anni, forse da molti decenni, sarebbe tecnicamente fallito se non ci fosse quella teoria che dice che gli stati non possono fallire, perché siamo al 120-121 di stock di debito sul prodotto interno lordo. Dall'altra parte io credo che sia una sfiducia complessiva nell'euro, per cui molti stanno puntando su qualche cosa che dice: hanno fatto l'euro, non ho fatto l'Europa politica, quindi prima o poi questa cosa deve saltare. Ecco, io credo che sia quello. E quindi escono dalle posizioni che possono comportare a medio e lungo periodo più rischi. Naturalmente tutto questo, prima parlavamo di industria, ma l'industria è strettamente collegata anche all'andamento dell'economia in generale, della finanza. Quindi tutto questo naturalmente rende ancora più difficile il nostro lavoro di imprenditori manifatturieri. Ma lei comprerebbe BOT BTP italiani adesso? Dato che siamo alla radio, senza dubbio sì. E se non fossimo alla radio? No. Mi faccia la domanda di riserva. Vabbè, lei comprerebbe azioni italiane? Io non compro azioni oggi. Questo anche è un'indicazione. Abbiamo avuto invece gestori di fondi private equity che ci hanno detto: no, io compro Italia. Perché... Ma io non pretendo di essere. Ma non interessano tutte le opinioni, ci mancherebbe, anche perché mi sembra. Non me ne intendo, ecco. Io già da molti anni non compro azioni. Bene, in bocca al lupo, soprattutto oltre che lei hai le 700 aziende, imprese associate all'ANI. Grazie quindi al presidente di ANI, Guido Alberto Guidi. Arrivederci. E adesso il traffico, poi la borsa, poi la Grecia e poi abbiamo detto anche l'Enel a Porto Empedocle. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, la borsa allora, molto bene la giornata oggi, oggi lo si può dire con tranquillità, più 3%, Milano meglio di Parigi più 1,60, quindi il doppio, molto meglio di Francoforte più 0,40, più 1% Londra, passata la paura, io andrei cauto, abbiamo festeggiato con il Gallo in apertura. Andrei cauto, certo è che anche lo spread col Bund è sceso sotto i 300 punti, borsa. Come sempre con Radio Corriere Sole 24 ore, poi c'è questo risveglio di Fondiaria Sai. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Ormai è un marchio di fabbrica. Perché Fondiaria guadagna il 9,30%? L'aumento di capitale è andato bene, ma se ne sono accorti solo oggi? Sì, allora l'aumento di capitale è andato bene, ricordiamo che si è chiuso venerdì scorso. Allora la notizia è che oggi praticamente l'agenzia di rating Fitch ha comunicato che il rating su Fondiaria e sulla controllata Milano Assicurazioni non è più sotto osservazione per un eventuale peggioramento grazie anche al buon esito dell'aumento di capitale. Inoltre Fonsai ha comunicato oggi che nel primo giorno sono già stati venduti tutti i diritti di opzione relativi all'aumento di capitale che non erano stati esercitati, quindi il titolo ha festeggiato in pratica queste due notizie. E questo per quello che riguarda il titolo, che è andato a 1,92 euro. Poi i bancari, Popolare di Milano più 7% quasi, Intesa San Paolo più 6,60, chi ha comprato banche in questi giorni? Più 6,40 Monte dei Paschi, più 5,90 Unicredit, più 4,50 Ubibanca, più 4,70 Generali, più 3% il Banco Popolare. Insomma, i veri professionisti vendono sull'entusiasmo e comprano sul panico. Sì, allora bisogna dire che per il secondo giorno consecutivo il rally è stato proprio trainato dai bancari, che erano i titoli che sono stati più penalizzati nelle ultime settimane e anche da inizio anno. Oggi la migliore appunto sul paniere principale, quindi su FTSE MIB, è stata la Banca Popolare di Milano. Ieri sera la società ha diffuso il piano industriale 2015, che prevede tra le altre cose, tra gli altri fattori, la distribuzione nel periodo di circa 1 miliardo di euro di dividendi, con un payout quindi pari al 45%, cioè 45% dell'utile sarà distribuito. E inoltre, a margine della presentazione del piano, Enzo Chiesa, che è il direttore generale della banca, ha indicato che sarà il CDA di settembre a decidere l'entità dell'aumento di capitale, che quindi probabilmente arriverà sul mercato alla fine dello stesso mese, quindi alla fine di settembre. Sì, e comunque evidentemente ampiamente digerito dal mercato questo aumento, visto che l'ha chiesto prima Mario Draghi, poi Ponzellini ha detto che lo faranno, per cui mi sembra che non abbia sia stato completamente metabolizzato, mettiamola così. Intesa San Paolo più 6,61 nonostante la rottura delle trattative per gli esuberi. Sì, infatti diciamo che il titolo non ha risentito quindi della notizia relativa allo stop delle trattative, ma ha beneficiato del buon andamento dei bancari in Europa, che ricordiamo hanno chiuso con un rialzo del 3,6% circa. Ancora per altri titoli, insomma, io vedo molti messaggi che dicono, insomma, questa borsa è una barzelletta, è un ottovolante. Lo sappiamo che esistono i fenomeni, tra l'altro più si va avanti verso l'estate meno operatori ci sono, restano solo i professionisti e non i cassettisti, ammesso che ci sia ancora qualche cassettista in borsa. Dicevo, in altalena oltre che i bancari, Fiat più 5,23%. Qui però c'è anche qualche novità che arriva dall'America, alcuni quotidiani americani danno per scontata la fusione con Chrysler. Sì, infatti il titolo oggi ricordiamo che ha sovraperformato il mercato dell'auto, che ha chiuso poco sopra la parità in Europa. Sì, allora infatti dopo appunto le nuove indiscrezioni su una fusione con Chrysler, sono arrivate una serie di giudizi positivi dal mercato, che appunto puntano a una fusione ritenendo il prossimo passo logico. Altri elementi positivi nel breve e nel lungo termine sono individuati, oltre all'aggregazione, quindi sono individuati nei risultati trimestrali e sul possibile aggiornamento dei target per il 2011, oltre anche a un potenziale spin-off, quindi a un potenziale distaccamento tra virgolette dal gruppo di asset come Ferrari Maserati, la componentistica compresa Magneti Marelli. Quindi diciamo che il titolo continua a beneficiare di indiscrezioni su asset futuri. Allora, questo per quello che riguarda Fiat. C'è un altro titolo che oggi è in evidenza, mi riferisco a Mediaset, più 3,46%, rivede i 3 euro per azione, 3,11 euro per azione. Sì, allora, il titolo ha beneficiato in mattinata, quindi delle indiscrezioni relative, le indiscrezioni secondo cui appunto il gruppo avrebbe raggiunto un accordo con DMT per l'incorporazione di quest'ultima nel gruppo del Biscione, che controllerà almeno il 66% del capitale. Successivamente DMT ha precisato che le negoziazioni sono ancora in corso e il titolo DMT ha perso circa l'1,6%. Oltre a questo però sono arrivati anche su Mediaset giudizi positivi del mercato, che dopo che l'intero settore media ha sottoperformato del 20% il mercato da marzo, rendendo quindi le valutazioni più attraenti soprattutto in vista di un recupero della pubblicità e della stabilizzazione politica, e il titolo quindi ha beneficiato di una serie di fattori. Ancora male oggi pochi titoli per fortuna: Ansaldo meno 1,40, Pirelli meno 1%, ma anche qui il titolo molto bene andato in questi mesi, Mediolanum meno 0,70, l'Ottomatica meno 2,1%, ma resta in positivo da inizio anno. Andiamo sui migliori peggiori in assoluto. Dunque, benissimo Cobra Automotive, Technological Spa, più 9,50, Fondiera Assai, abbiamo detto, più 9,30, Molecular Medicine più 8,12% e CareSelf più 7%. Cobra Automotive, che è una cosa... Allora no, su Cobra Automotive non ci sono notizie, nel senso che il titolo è, diciamo così, schizzato, se si può dire così, verso il finale di seduta, mentre prima il titolo migliore del listino era Molmed, quindi probabilmente ci sono scattate delle ricoperture sul finale di seduta. E Molecular Medicine più 8,15%, nessuna ripercussione lì dal San Raffaele, eh? No, infatti il titolo ha accelerato proprio dopo aver precisato di non avere alcun legame con le vicissitudini che stanno coinvolgendo la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor. Infatti la Fondazione è azionista e fondatore della società, sì, di Molmed, ma al momento detiene solo un 10,5% del capitale della quotata. Bene invece che il CareSelf dopo l'aumento di capitale, via libero aumento di capitale, il peggior titolo Gemina Edes, meno 4,71, Gemina sulle risparmi non convertibili, Icon meno 3,88%. C'è chi scrive al 349-238-6666, ogni volta che i mercati li commentano o Condina o la Zancanella, la borsa sale. Va bene, nel senso, vedremo anche se c'è una correlazione tra i commenti della Diocore e l'andamento di borsa. Tanto non vi preoccupate, se conduco io comunque la borsa va male, quello che sostengono molti da tanti anni. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24, Benchmark, Zancaner, Condina. Grazie a ambedue e cambiamo tema, andiamo in Grecia. Diario dalla Grecia. Pensavate che ce lo fossimo dimenticato? Mentre molti mi scrivono che Cobra fa antifurti satellitari per auto, chiedo venia per l'ignoranza. Cettina Livi da Atene, come sta? A scaldo. Vabbè, adesso cerchiamo di parlare anche di notizie, signora Livi, perché questa fin lì ci arrivavamo. Ma dico, è preoccupata per domani, visto che è l'ultimo appello per la Grecia a Bruxelles? Il paese è preoccupato? Il paese ormai è sempre preoccupato, però siccome i giornalisti dicono che non c'è da aspettarsi molto, che non bisogna essere ottimisti, quindi sono molto cauti. Molto cauti. Allora facciamo una cosa, io ho il GR adesso, poi ci racconta in questa cronaca che ci accompagnerà tutta l'estate dalla Grecia, perché insomma anche capire come un paese affronta il rischio, il baratro default ogni giorno, il baratro fallimento ogni giorno, può essere interessante per il futuro in maniera scaramantica, non riguarda l'Italia, per carità. Dopo il GR ci racconta com'è andata questa settimana. 349-238-6666 per i vostri SMS. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa giornata che abbiamo raccontato sia sul fronte dei dati economici italiani, ordinativi industriali, fatturato dell'industria italiana in chiaroscuro mese su mese, cioè maggio su aprile in recupero invece rispetto a un anno fa, e soprattutto lo spread con il Bund tedesco che scende di nuovo sotto i 300 punti, 292, anzi anche sotto i 290 è sceso, 286. La borsa che è andata bene oggi, più 3%, con le banche che hanno guadagnato tra il 3 e il 7%. Adesso vorremmo ritornare sul nostro appuntamento quasi settimanale, il nostro diario dalla Grecia, da Atene, con chi vi abita, è italiana per carità, vi abita da oltre 20 anni, si trasferì lì per seguire il marito e la stiamo usando in senso benevolo come nostra antenna per capire come un paese viva costantemente sul rischio fallimento. Diario dalla Grecia. Allora, Cettina Livi, prima del GR ci diceva che insomma non c'è tutta questa apprensione per la riunione di domani, in cui, da quello che ha dichiarato oggi anche il presidente dell'Eurogruppo Barroso, si decide il destino della Grecia, si cerca di pilotare un eventuale fallimento. Il paese ci è abituato? Ci ha fatto il callo? In parte sì, quindi non c'è molto ottimismo, però non so se lo fanno anche un po' per scaramanzia. Ma i disagi invece, manifestazioni, scioperi, che sono un po' passati in cavalleria sulla stampa italiana, continuano ad Atene, in Grecia? Ma c'è solo lo sciopero dei tassi, che sta portando problemi ai turisti, non certo agli abitanti, perché ci sono 15.000 tassi circa ad Atene, per cui quando sono in sciopero si va via molto più facilmente, c'è meno traffico, poi la città è semivuota perché tantissimi sono già partiti. E il primo giorno soprattutto era stato uno sciopero abbastanza duro, avevano bloccato l'aeroporto e il porto del Pireo, quindi i turisti avevano avuto alcuni disagi, per la popolazione locale non più di tanto. Ecco, tra l'altro era stato bloccato, abbiamo letto, l'aeroporto e il porto, oggi autostrade, porti, tutto a posto? No, dunque un po' in tutta la Grecia le manifestazioni dei proprietari dei tassi, perché sono i proprietari a scioperare, e stanno continuando però in forme più leggere, dal momento che hanno capito che questo crea una cattiva immagine al turismo, per cui non so, a Salonicco sono andati all'aeroporto però a piedi, lasciando i tassi lontani, poi hanno bloccato i la diodia, come si dice in italiano, non si viene adesso, insomma quando si paga per l'autostrada, il casello, il che non mi veniva, scusate, dopo no, tanti anni in Grecia, e hanno lasciato che le macchine passassero senza pagare, cosa che ovviamente ha fatto molto comodo alla Grecia, ma non allo Stato ovviamente. E poi sono andati a manifestare al porto, diciamo che stanno cercando di creare meno disagi al turismo, perché questo fa male. Quest'anno peraltro andava abbastanza bene il turismo. Ecco, questo volevo chiederle, da quello che vedete il turismo, perché c'è chi anche ha fatto un'operazione un po' così cinica, insomma, ha puntato sulla Grecia perché ha immaginato prezzi più bassi. I prezzi sono più bassi e il turismo come va? Due domande. Dunque, il turismo sta andando bene quest'anno, cioè dal 10 al 20% in più, sta recuperando quello che aveva perso negli ultimi 2 anni. I prezzi ci sono, alcune offerte veramente molto buone, quello un po' di lusso non è proprio così al gran risparmio. Beh, ce ne faremo una ragione, dai. Infatti. Comunque ci sono un sacco di offerte, per cui è abbastanza limitata per la gente, non dovrebbe essere così caro. Ecco, un'ultima domanda, mentre vedo un'agenzia sull'incontro di domani, in cui arriva da Bruxelles l'agenzia, ma si starebbero delineando sviluppi positivi per la messa a punto di soluzioni in vista del vertice di domani a Bruxelles per la Grecia. I contatti tra i vari paesi europei sono ancora in corso. Mi dico una cosa, ma c'è stato un assalto alle banche a ritirare i depositi dagli sportelli bancari? Sì. Moltissima gente ha trasferito i depositi. Dove? All'estero, dove ha potuto. Lei l'ha fatto? Non avevo soldi abbastanza da ritirare, non valeva la pena. E per quello che riguarda invece la classe politica, perché dopo gli scontri ampiamente documentati delle settimane scorse, resta, cioè, il paese sta facendo tra virgolette quadrato con il governo e con la classe politica, perché capisce esattamente al contrario. Il popolo, diciamo così, ce l'ha moltissimo con la classe politica, che ritiene responsabile di tutto quello che sta succedendo, per cui non so, a Patrasso hanno affisso tutti i cartelloni con ricercato è un delinquente, oppure appena si ha notizia di un deputato che va a mangiare in una taverna vanno lì in gruppo, buttano yogurt e uova. Anche all'uscita della messa alcuni deputati sono stati aggrediti a parole, tant'è che alcuni deputati non usano la macchina di servizio, ma magari usano il tassì, soprattutto quando non è sciopero, per non farsi vedere, perché questa cosa del lancio dello yogurt sta diventando un po' uno sport nazionale. Il lancio dello yogurt ai politici? Sì, sì, sì. Cioè lei mi sta dicendo che come sanno che un politico va a mangiare in un ristorante, ma una taverna economica o un ristorante di lusso anche, no? Chiedo. Ci sono alcune taverne che non sono proprio economicissime, quelle come dire, che hanno una grandissima tradizione, il greco preferisce sempre comunque andare nella taverna tradizionale e ama molto mischiarsi, come dire, con la gente comune, di solito non va al ristorante francese. Vabbè. Ma e quindi, li aspettano al ristorante? Sì, sì, e li assalgono con vasetti di yogurt. Ma lei sta creando un problema al 349-238-6666, che è il numero per i nostri sms, perché c'è qualcuno che vuole portare queste idee anche in Italia. Aspettate, insomma, non c'è mica bisogno in questo momento, però insomma il lancio dello yogurt al politico è interessante, anche perché lo yogurt è il prodotto, diciamo, uno dei prodotti che più connota la Grecia, no? Certo, è la bandiera nazionale insieme al souvlaki. Vabbè, meglio lo yogurt del souvlaki, non lo so. Non lo so, lo yogurt è più appiccicoso, guardi. Sì, ecco, subito che qualcuno inizia a dire noi potremmo lanciare le pizze, sì, meglio lanciarle che tirare le pizze. Però mi dica un'ultima cosa, sul fronte dei risparmi privati invece, e vorrei chiudere su questo, è vero che c'è stata una corsa ai risparmi bancari e portarli fuori dallo sportello, ma l'andamento dei consumi, lei ci ha fatto un primo collegamento un mese fa raccontando un'Atene obiettivamente sotto shock, sta ripartendo la vita quotidiana o ancora tutti sono in attesa di capire che fine faranno? Ma io direi che siamo un po' tutti in attesa di capire quello che succede, e poi siccome in luglio sono tutti al villaggio nativo, Atene è vuota. Ah, tutti più che al mare dai parenti? Sì, da parenti, perché quasi tutta la popolazione di Atene, 5 milioni, vengono da qualche altra parte, quindi siccome quest'anno le isole greche sono per gli stranieri e non per i greci, vanno tutti al paese di origine, dove quasi tutti hanno la casa di origine, quindi Atene è vuota in questo momento. Vabbè, quindi rischiano meno anche i politici in giro. Senta, grazie, in bocca al lupo, grazie alla nostra corrispondente, insomma, dalla nostra antenna ad Atene, Cettina Livi. Presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, buonasera. Buonasera a voi. Ha sentito, adesso non le dico cosa sta capitando, ognuno vuole lanciare addirittura i piatti regionali qui in questo paese. Piatto tipico regionale siciliano, la pasta al forno, la pasta con le sarde. Insomma. Meglio lo yogurt, però io spero che non si arrivi mai a questo. Il tema è serissimo, non so più come affrontare il tema dei costi della politica se non ogni tanto, no, rido perché c'è chi scrive lancio di pizze ma surgelate. Ragazzi, vabbè, andiamo in meteo, poi invece con lei commentiamo una bella notizia, ossia che oggi è stato sbloccato il progetto Porto Empedocle, e quindi 800 milioni di euro di investimenti, 50 milioni in opere compensative sul territorio siciliano. Traffico, e poi ci racconta anche l'importanza che ha questo progetto sul territorio della cui Confindustria lei è presidente. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il Consiglio di Stato oggi ha accolto il ricorso presentato dall'Enel contro lo stop il blocco alla realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle. Non torno sul tema dei rigassificatori, visto che quando c'è stata la crisi del gas dalla Russia ne abbiamo parlato per intere puntate. Sono fondamentali per far arrivare in Italia il gas non solo dai gasdotti sostanzialmente russo, olandese e algerino, ma anche attraverso le navi. Però qui vorrei ragionare sul territorio. Presidente Lobello, che cosa significa lo sblocco di questo progetto per voi? Beh, lo sblocco di questo progetto significa 800 milioni di euro di investimenti, il rilancio industriale di un'area che già ha una vocazione industriale, il rifacimento del porto della cittadina di Porto Empedocle, che questo aprirà anche lo spazio per ulteriori investimenti, perché creerà anche condizioni infrastrutturali che possono giustificare questi investimenti. Quindi un elemento positivo, le ricordo che il ricorso è stato avanzato anche da Confindustria Sicilia insieme ad Enel, e siamo particolarmente soddisfatti per la decisione del Consiglio di Stato. Decisione importante anche perché, questo mi preme dirlo con forza, è un contenzioso che nasce da un ricorso originario di un comune che nulla ha a che vedere con Porto Empedocle, il comune di Agrigento, per motivi ancora incomprensibili, probabilmente la richiesta di compensazioni non dovute, che hanno messo a rischio un investimento importantissimo per l'area. Perché vede, i comuni possono svolgere un ruolo importantissimo, possono essere motori dello sviluppo territoriale, in alcuni casi non svolgono un ruolo importante, perché molto spesso prevalgono interessi localistici che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del territorio. Abbiamo parlato a lungo anche con il presidente della comunità montana della Val di Susa, non le dico che intervista è stata sulla TAV, e lei ci sta facendo capire una cosa importante, lo dico anche a chi scrive, perché alcuni scrivono: ma insomma si rovinerà il paesaggio siciliano di Porto Empedocle. A parte il fatto che dovete andarci a Porto Empedocle prima di scriverlo, perché Porto Empedocle è già, ma adesso ce lo spiegherei meglio, un'area industriale, non si va a toccare la riserva dello zingaro, per essere chiari. E ancora è importante quello che lei ricordava, attenzione che il ricorso non era stato fatto dagli ambientalisti, ma da un comune non contento, diciamo, di non essere entrato nelle compensazioni, posso dirla così, Lobello? Diciamo così, perché guardi, il comune di Porto Empedocle, dove verrà realizzato il rigassificatore, è stato un comune che ha supportato il progetto fin dall'inizio, Le compensazioni sono avvenute in maniera trasparente, sono state inserite nel decreto di autorizzazione dell'impianto, È stato un comportamento esemplare con un sindaco che ha sostenuto fortemente, anche contro qualche resistenza, una infrastruttura strategica che, ripeto, non dà nessun problema di sicurezza, consente un rilancio di una realtà industriale, perché la realtà di Porto Empedocle è industriale. Ho ascoltato tante falsità, come se il rigassificatore fosse a un chilometro dalla Valle dei Templi, altre cose, insomma, dovrebbero studiare un po' più la geografia prima di parlare. Anche visitare i luoghi, perché insomma chi è passato da Porto Empedocle o ha visto anche Gela, di tutto può dire, tranne che si vada a deturpare il paesaggio, ecco, mettiamola così. Ma si tratta di realtà che hanno avuto e continuano ad avere una vocazione industriale. Peraltro, ecco, le dico, la realizzazione del rigassificatore consentirà il recupero e il potenziamento infrastrutturale del porto di Porto Empedocle, che ha una posizione strategica, si affaccia sul Mediterraneo, guarda ai paesi del Maghreb. Anche lì questo sarà un fattore attrattivo rilevante di altri investimenti. Ripeto, siamo contenti, perché in questa vicenda assistiamo a due comportamenti profondamente diversi: il comportamento di un comune che lavora per lo sviluppo del territorio, il comportamento di un altro comune che si mette Ma come si chiama quest'altro comune? Agrigento, insomma, non è un comune qualsiasi. Ah, Agrigento, no, pensiamo un comune della provincia di Agrigento. Il comune di Agrigento. Per molti versi noi abbiamo apprezzato alcune cose che ha fatto il sindaco di Agrigento in passato. È evidente che su questo tema c'è stato un confronto aspro o duro, perché non abbiamo mai compreso le ragioni che hanno portato il comune di Agrigento a proporre un ricorso al TAR e a mettere in discussione un'opera rilevante, investimenti rilevanti, posti di lavoro e la prospettiva stessa di una cittadina come Porto Empedocle, che, ripeto, ha una forte vocazione industriale e portuale. Allora, i lavori per la costruzione dell'impianto, 90% è di proprietà dell'Enel, dureranno 54 mesi e impiegheranno nel cantiere fino a un massimo di 900 persone, che con i tempi che corrono, a maggior ragione nel nostro sud e in Sicilia non è poco. In esercizio invece il rigassificatore darà lavoro a 120 persone, 200 con l'indotto, più immagino anche una ricaduta sulla città. Mi scusi, lei dice che non ha mai capito, ma un'idea se la sarà fatta del perché Agrigento si è arrivato a bloccare un progetto così importante, 800 milioni di euro di investimenti più 50 milioni di euro dati alla città di Porto Empedocle? Mi rimane incomprensibile, guardi, non mi voglio avventurare su valutazioni che non siano corredate da fatti concreti. Rimane, diciamo così, un'opposizione, ripeto, non supportata da nessuna valutazione reale sull'impatto, che non coinvolgeva né riguarda la città di Agrigento, quindi ripeto, rimango dell'opinione che si tratti comunque di una scelta incomprensibile, ripeto, fatta da un sindaco che peraltro in alcune fasi noi abbiamo apprezzato anche per la capacità e il dinamismo che ha avuto su quel territorio. Però le ripeto, insomma, su questo tema c'è stato, diciamo, un confronto totale, perché ripeto, non si può scherzare con lo sviluppo, ecco, di un territorio. Presidente Lobello, lei è stato, assieme al vicepresidente di Confindustria Montante, l'artefice, l'ideatore della campagna espulsione degli imprenditori che pagano il pizzo, poi una campagna ripresa anche dalla Confindustria a livello nazionale. Glielo dico perché vorrei sapere un'ultima cosa. 800 milioni di euro di investimenti a Porto Empedocle fanno gola a tanti, e soprattutto alla mafia. Come si gestisce un'operazione del genere? Le dico subito, la grande scommessa che sta riuscendo anche nella realtà di Agrigento di poter realizzare grandi infrastrutture prevenendo le infiltrazioni mafiose. Questo si sta facendo anche su altre infrastrutture dell'Agrigentino, per esempio l'Agrigento si sta costruendo un'importante autostrada che collegherà Agrigento a Caltanissetta, e attraverso protocolli di legalità sottoscritti dall'azienda, da Confindustria, dall'ANAS e con una vigile attenzione della prefettura, in questi due anni si sono prevenute molte infiltrazioni mafiose, sono state emesse dalla prefettura moltissime interdittive antimafia. E si riprodurrà lo stesso lavoro sul rigassificatore di Porto Empedocle, c'è la sfida che è concreta e che può essere realizzata, ci sono precedenti importanti nello stesso territorio, è quello di sfatare il mito che non si possono realizzare grandi infrastrutture nel mezzogiorno senza infiltrazioni mafiose. Si possono realizzare evitando le infiltrazioni mafiose, purché ci siano comportamenti coerenti dalle aziende, dalle committenti, dalle strutture preposte ai controlli. Tutte queste condizioni ci sono sul territorio, quindi noi siamo confidenti che anche il rigassificatore possa essere un successo non solo economico ma anche civile, che rafforza quella componente di impresa. Fermo restando che poi rispetta le regole. Il rigassificatore serve a tutto il paese, non solo la Sicilia, la ricaduta è importante nel territorio agrigentino di Porto Empedocle, però ha una capacità di 8 miliardi di metri cubi l'anno, con unico caso in Europa, due serbatoi interrati da 160.000 metri cubi l'anno, quindi servirà anche da riserva del gas per l'intero paese. In bocca al lupo e auguri a tutta l'area interessata e alla Sicilia intera, e al presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lobello. Grazie a voi, alla prossima, arrivederci. Arrivederci, presidente. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Felicità, momenti e futuro incerto per i nostri politici, a giudicare da cosa ha scatenato Cettina Livi, spiegando che in Grecia ormai la moda è lanciare lo yogurt, prodotto nazionale, ai politici quando vengono, li incontrano al ristorante o al lancio di uova e yogurt, più yogurt che uova, e qui sta dilagando al 349-238-6666 l'ipotesi di piatti regionali. Mi fermo veramente, perché non abbiamo bandito il concorso scegli il piatto regionale da lanciare al politico, né lo bandiremo mai. È veramente tutto per questa puntata, vi ricordo solo l'andamento di Wall Street, che adesso è leggermente negativa, meno 0,13%, la buona, più che buona chiusura di Piazza Affari, più 3%, con i bancari in rialzo tra il 3% e il 7% della Popolare di Milano. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.